falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Ciao Enrico, mi chiamo Elisabetta e abito a Desenzano, sul lago di Garda. Mi piacerebbe tanto che tu raccontassi in una tua puntata la storia del mio attore preferito, il leggendario Steve McQueen. Mi accontenti? Io voglio accontentare Elisabetta di Desenzano, anche perché l'idea di parlare di Steve McQueen è un'ottima idea, perché è una storia incredibile da raccontare, con grandi colpi d'ala professionali e privati. Poi stiamo parlando di uno dei più grandi attori di tutti i tempi, però anche di un atleta, di un pilota di auto e di moto, è un ribelle, un antieroe, un antidivo, un anticonvenzionale, insomma un grande personaggio. Non a caso anche Vasco Rossi, in una delle sue canzoni più famose, ha cantato: voglio una vita spericolata, voglio una vita come Steve McQueen. E allora noi raccontiamo la vita di Steve McQueen, vediamo di scoprire qualcosa di più su di lui. Io voglio condurre la mia vita come voglio io. In altre parole, la mia vita privata è mia e io lotto per avere questo. Padrone della sua vita, anche se è un divo di Hollywood. Questa è già una sfida difficile da portare a termine, ma Steve McQueen è un uomo che dichiara la sua indipendenza da tutto, compreso dallo Star System. Nasce il 24 marzo, come mio figlio, il 24 marzo però del 1930, a Beech Grove nell'Indiana, nei pressi di Indianapolis. È una città molto famosa per l'omonimo circuito automobilistico, guarda caso, insomma un presagio di quello che accadrà più tardi nella sua vita. Il padre è uno stuntman straordinario nella sua professione, però è molto meno straordinario come padre, perché William McQueen abbandona la famiglia quando Steve ha solo 6 mesi. La madre è un'alcolizzata, Julian, e passa da una relazione all'altra e non si occupa affatto del figlio. Così a 14 anni Steve fa già parte di una gang di strada che spadroneggia per le vie di Los Angeles, dove nel frattempo loro si sono trasferiti. È un attimo per lui finire al riformatorio. La prima moglie di Steve McQueen, Neil Adam, racconta i momenti bui di quella che deve essere stata un'infanzia davvero infelice. La madre lo mise al Boys Republic, che è un riformatorio. C'erano le vacanze, i genitori andavano a prendere i figli. Lei invece lo lasciava sempre lì. Gli diceva: ti vengo a prendere. Allora lui la aspettava, ma lei non ci andava. Quindi, abbandonato dal padre, poi dalla madre, non ha parenti, Steve è solo. La sensazione è che nessuno lo ami. Allora c'è un suo insegnante che probabilmente intuisce un grande potenziale in quel ragazzo, perché quando soffri molto hai un grande potenziale. Gli dice: se vuoi riuscire a fare qualcosa nella vita, devi imparare la disciplina. Probabilmente queste parole agiscono in maniera positiva, perché nel 47, quindi a 17 anni, Steve McQueen entra nel corpo dei Marines, dove rimane per 3 anni. Il suo carattere viene fuori anche lì, perché accumula 41 giorni di prigione nei 3 anni, sempre per lo stesso motivo, per aver fatto a pugni con qualcuno. Ma sicuramente nei Marine la disciplina la impari. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. Ma nella aprile del 1950 e la vita conduce Steve McQueen laddove tutto ha inizio, a New York, anche perché New York nel 1950 è una città spettacolare, è carica di stimoli di ogni genere. Attori, musicisti e artisti provenienti da ogni parte del mondo si affollano in quella che viene chiamata la Grande Mela. Sono tutti alla ricerca di un momento di gloria. Il cinema è in grande fermento, il teatro a New York sta vivendo una stagione felicissima e sta iniziando anche la grande epopea della televisione. Steve adora questa atmosfera e anche se non sa bene cosa fare, lo ricorda benissimo il regista Mark Rydell. Steve era sicuro di quello che voleva. Voleva lavorare nel cinema. Non sapeva bene se sarebbe diventato un attore o un tecnico del set. Non ne aveva idea. Ma poi scoprì che nella scuola di recitazione c'erano un sacco di ragazze e a lui le ragazze piacevano molto. E beh, il fatto che ti piacciono le ragazze è di grande stimolo, perché se hai una sensibilità artistica in qualche modo è conciliabile con il fatto che vuoi anche fare colpo. Tutti quelli che hanno iniziato a suonare o hanno iniziato a fare gli attori sono partiti per quello. Steve punta in alto, tenta il tutto per tutto, fa un provino per accedere alla scuola più prestigiosa di tutte, l'Actor Studio di Lee Strasberg. Beh, lo sapete, è la scuola dalla quale escono Marlon Brando, Al Pacino, Marilyn Monroe, Paul Newman, James Dean, è un elenco interminabile, è la scuola di recitazione per eccellenza, tant'è che alle selezioni si presentano 2000 candidati in quell'anno, 2000 fanno il provino, ne vengono scelti solo due. Uno si chiama Martin Landau, che è il futuro comandante John Koenig della fortunatissima serie Spazio 1999. Vorrei che si facessero vedere, che spiegassero qualunque cosa. Le luci, i colori. Forse è questo il loro modo di esprimersi. No, ci hanno parlato. Ehi! Vogliamo parlare con qualcuno di voi? Parla, terrestre. Dicci cosa vuoi. Perché? Perché ci avete attaccato? Perché? Vi abbiamo trasmesso dei messaggi fin dal momento in cui ci siete apparsi. Noi volevamo scendere qui. Non ci avete risposto. E quando ci avete risposto l'avete fatto bombardandoci con le astronavi. Bene, ma abbiamo detto che ne hanno presi due. L'altro, preso all'Actor Studio, è un giovane originario dell'Indiana che ha fatto il Marine. Eh sì, è proprio lui, Steve McQueen. Quando stavo studiando a New York sapevo che non potevo fallire, perché era l'unica cosa che sapevo fare e non avevo un'alternativa. Quando gli altri della classe arrivavano con due improvvisazioni, io ne portavo otto. Dovevo lavorare sodo. Mi ritrovai buttato dentro a qualcosa che all'inizio non sapevo nemmeno se mi piaceva o no. So I'm picking him up and I'm laying him down. I believe he's gonna work me into the ground. I pull to the left, I heave to the right. I ought to kill him, but it wouldn't be right. Cause I'm working for the man. Falco e il Gabbiano torna tra poco, qui su Radio 24. Il Falco e il Gabbiano. Anche oggi stiamo raccontando una storia particolare, peraltro una storia che dedichiamo a tutte le donne in ascolto, in particolare a Elisabetta di Desenzano che ce l'ha chiesta, però stiamo veramente raccontando la storia di uno dei miti di Hollywood, un attore tra i più affascinanti dello star system, un ribelle amato anche dagli uomini per il suo stile unico e per la sua passione per i motori, Steve McQueen. E abbiamo raccontato di un'infanzia assolutamente infelice, entra nei Marines a 18 anni, si forma un carattere deciso, si abitua alla disciplina, poi arriva a New York che è un giovane uomo, bello, pieno di fascino, che è attirato dal mondo del cinema e che vince, insomma passa un provino in cui tra 2000 persone ne scelgono due e il provino è per entrare nella scuola di recitazione più importante del mondo, l'Actor Studio. Siamo nel 1950 e Steve frequenta i corsi dell'Actor Studio con molta serietà. Intanto fa, diciamo, la gavetta, piccole parti in teatro, in diversi spot pubblicitari. E poi finalmente nel 56 viene ingaggiato per una piccola parte, ma in un film importante. Film di una suddetta sconvolgente si svolge nelle strade di New York, quelle stesse strade dove appunto la Metro-Goldwyn-Mayer ha girato con eccezionale realismo la storia di un uomo travolto dall'odio. Lassù qualcuno mi ama, rivela con insolita sincerità la vita di Rocky Graziano, campione sotto molti aspetti, anche i peggiori. Una donna sa sempre come fare breccia. Ma come? Mi chiedi di entrare nel palazzo del tribunale? Ma è il posto dove la gente si sposa? Ah, sì, lo so, ma mi ci sentirò molto poco confortevole, ci puoi proprio giurare. Rocky, mi hai dato molte ragioni per non sposarti, ma non mi hai detto la sola cosa che mi convincerebbe. E quale? Dimmi solo che non mi ami. Non è facile rendere un personaggio ribelle come Rocky. Ci vuole una grande interpretazione. E quella di Paul Newman supera ogni elogio. Una cosa devi capire subito. Nell'esercito non c'è posto per gli spacconi. E non te lo scordare. Ehi, un momento, disgraziato. Sarai un capitano e va bene, ma non mi fai paura. Sei tanto fecondo, vieni fuori. Non sarei mica impazzito. Sì, forse sono matto e la colpa è tutta di questa lercia caserma. Ma io paura non ne ho. Lassù qualcuno mi ama di Robert Wise è la storia del grande pugile Rocky Graziano ed è interpretato da un gigantesco Paul Newman che all'epoca ha 31 anni ma è già un divo. Steve McQueen ha 26 di anni e invece un divo non lo è ancora proprio per niente, ha un piccolo ruolo da figurante per $90 al giorno, però è lì su un set importante, vede recitare grandi attori, vede lavorare un grande regista, insomma è entrato nel mondo giusto. Intanto però coltiva le sue passioni, ha una moto con la quale sfreccia in lungo e in largo per New York e la moto è un amore che non lo abbandonerà mai per tutta la vita. Poi ci sono le ragazze e lui non solo è bello, ha proprio quel tipo di atteggiamento da canaglia, quello che piace alle donne quando dicono quello lì non lo sopporto, lo odio, lo detesto, mi ha fatto soffrire, e in realtà invece stanno soffrendo perché sono innamorate. È considerato un playboy, però come capita spesso ai playboy si imbatte in quella che lo fa capitolare. Lei si chiama Neal Adams, ha 22 anni, è una cantante e un'attrice. Presumo che sia perché gli opposti si attraggono, ma per me fu, come dire, la prima volta che mi innamoravo di una ragazza. Tutto qui. E così i due ragazzi si mettono assieme, lei è già abbastanza affermata, lui sta ancora lottando per trovare la sua strada e la ragazza rappresenta per Steve un punto fermo perché lui una famiglia non ce l'ha mai avuta. Un giorno mentre ero su un set ricevetti una telefonata. Era Steve che mi disse: sto arrivando per fare di te una donna onesta. Io gli risposi: ok. Non avevo idea di che cosa intendesse, ma poi arrivò con un anello di fidanzamento che tra l'altro dovetti pagare io. Steve McQueen e Neal Adams si sposano il 2 novembre 56. Dal loro matrimonio nascono due figli, una bambina Terry nel 59 e subito dopo nel 60 un maschio, Chad, che ricorda suo padre così. Credo che la ragione per la quale era un padre così bravo era il fatto che avesse tanto sentito l'assenza dei suoi genitori. Era un uomo che aveva sofferto e si trasformò in un buon padre. Nel frattempo Steve interpreta alcuni B-movies, tra i quali certamente il più importante per il successo che riscuote è The Blob. Subito dopo diventa il protagonista della serie televisiva Wanted, Dead or Alive, dove interpreta un cacciatore di taglie e così raggiunge una notevole popolarità. A questo punto Steve può dare fondo alla sua grande passione, quella per i motori. L'unico momento nel quale mi rilasso davvero dalla tensione del set è quando corro in auto o in parco imparo ad andare in moto. Mi rilassa molto la velocità. Steve ha tutto dalla vita. Ha una bella moglie, due figli fantastici, una buona notorietà grazie alla serie televisiva di cui è protagonista. Ma naturalmente vuole di più. Non gli basta solo la televisione. Anzi, la televisione gli va stretta. Gli attori delle serie televisive non fanno una bella vita, perché iniziano a lavorare alle 6 del mattino e smettono alle 9 di sera, tutti i giorni della settimana. E non hai tempo per approfondire i personaggi o approfondire il lavoro che vorresti fare. E Steve dimostra già qui il suo spessore di uomo e di artista. Vuole approfondire i personaggi che interpreta e per farlo deve poter lavorare nel cinema. E come sappiamo ci riesce. Fra poco scopriremo come. Untied in the breezy twenties, with a handheld in my hands, bearing my heart to the hallowed spires of this quiet and ancient land. For a kiss was what we found, what we found, what we found on damp but friendly ground. Falco e il Gabbiano. La nostra puntata di oggi è dedicata a un vero mito intramontabile, il leggendario Steve McQueen. È la richiesta di uno di voi, è la richiesta della nostra ascoltatrice Elisabetta di Desenzano. Steve McQueen mi è sempre piaciuto, era l'idolo di mio padre e di mia madre. Faceva parte di quella generazione di attori come Marlon Brando, Paul Newman e James Dean, quelli belli un po' maledetti che fanno sognare. E poi era bravissimo, ha recitato in film stupendi. Mio padre diceva che era un bravissimo pilota, che aveva una collezione di auto e di moto pazzesca. È proprio vero, ha ragione il padre di Elisabetta, perché Steve McQueen aveva una collezione di oltre 100 moto e di alcune tra le più belle auto dell'epoca, tra cui 4 Porsche, 2 Ferrari e una Jaguar. Bene, forse non tutti lo sanno, ma Steve McQueen inizia la sua carriera di attore in televisione, in una serie western, però lui vuole sfondare nel cinema. Arriva finalmente all'occasione, siamo nel 1960. I Magnifici 7, un western epico diretto da John Sturges, dove Steve McQueen recita con attori del calibro di Yul Brynner, Charles Bronson, James Colburn. Il film ha un grandissimo successo e regala a Steve una notorietà internazionale. Quello che hai te l'ha procurato la pistola, non è vero? Non è vero, forse? Sì, dopo un po' puoi chiamare baristi e biscazzieri col nome di battesimo, puoi conoscere centinaia di stanze d'affitto e i pasti consumati nelle bettole, migliaia, ma casa? Nessuna, moglie nessuna, figli? Avvenire zero. Ho lasciato fuori qualcosa? Sì, luoghi cui sei legato? Nessuno. Persone cui vuoi bene? Nessuna. Uomini che rispetti? Nessuno. Insulti inghiottiti? Nessuno. Nemici? Nessuno. Nessun nemico? Vivo. Ormai lanciato nello star system, Steve McQueen inizia una carriera cinematografica brillantissima. Arriva alla consacrazione nel 1963 con uno tra i più bei film di guerra della storia del cinema, La Grande Fuga. È sempre di John Sturges, è sempre con James Coburn e con Charles Bronson. È basato su una storia vera. Il film racconta la grande fuga di un gruppo di prigionieri alleati da un campo di concentramento tedesco durante la Seconda Guerra Mondiale. Vai! Via di là! Nicht schießen! Nicht schießen! Non sparate! Idiota! Oltre il filo c'è la morte! Che filo? Quello lì! Il filo di guardia! Ah! È assolutamente proibito di passare, lei lo sa! Sì, ma la palla mi è rotolata laggiù. E come faceva a riprendere la mia palla? Dovevo chiedere permesso! Ah, va bene. Mi riprendo la palla! Senta di fare l'idiota! Fuori! Subito! Ok. Resti dov'è! Fate largo! Via! Cosa faceva vicino al recinto? Come dicevo all'amico qui, volevo riprendere la mia palla. Mi spieghi che voleva fare. Come dicevo all'amico, volevo tagliare il reticolato perché me ne voglio andare. Versugensin. Bitte. Parla tedesco. Jawohl, Robert. Tronchesi. Jawohl, Robert. Ho avuto occasione di conoscere diversi ufficiali inglesi nel corso di questa guerra. E tra loro e me c'è sempre stata comprensione. Lei è il primo ufficiale americano che conosco, è Hiltz, vero? Capitano Hiltz, se permette. 17 tentativi di fuga. 18. Specialista in scavi, ingegnere. Pilota. E se non sbaglio, nell'aviazione americana è considerato un asso. Mm-hmm. Comunque per sua sfortuna è stato abbattuto. Quindi né lei né io voleremo più per il resto della guerra. Parli solo per sé, colonnello. È la famosa scena della fuga del capitano Hills, che è interpretato da Steve McQueen. È una fuga fatta attraverso la Svizzera a bordo di una Triumph TR6 Trophy mascherata come se fosse una BMW bellica. Questa è un'idea dello stesso attore e viene girata naturalmente senza controfigura. Marshall Terry, che è il biografo di Steve McQueen, non ha dubbi sull'importanza di questa interpretazione unica. The motorcycle jump in that movie was a metaphor. La moto che saltava nella scena cruciale di quel film fu una metafora della sua carriera. Così come la moto saltava la palizzata verso la libertà, Steve McQueen saltava dalla sua carriera di attore televisivo verso quella di star del cinema. E Steve McQueen infila una serie incredibile di successi: Cincinnati Kid, Il caso Thomas Crown con Faye Dunaway, Il poliziesco Bullitt del 1968, dove interpreta un tenente dell'omicidio impegnato in un caso molto intrigato. E anche in questo film la celebre sequenza dell'inseguimento tra due auto per i tortuosi saliscendi di San Francisco è realizzato senza controfigura, con McQueen alla guida di una Ford Mustang GT. Sì, perché tutte le volte che ne ha la possibilità Steve fa a meno degli stuntman. La sua passione per le moto e le auto da corsa è altrettanto forte della sua dedizione al lavoro di attore, tanto che lui considera più volte di abbandonare il cinema giusto per dedicarsi completamente alle corse. Ah, ottiene anche risultati importanti, come nel 70 quando partecipa alla 12 ore di Sebring con una Porsche 908 Spyder e arrivò primo nella sua categoria, secondo assoluto dietro a Mario Andretti su una Ferrari. Niente male per un attore. Nel 1971 la stessa Porsche 908 viene usata come camera car per girare il film La 24 ore di Le Mans, un progetto voluto con tutte le sue forze dall'attore, che vuole conciliare la sua voglia di recitare con la sua passione per le auto. Eppure è l'unico vero fiasco nella storia della sua carriera, ma considerato oggi uno tra i miglior film di corse mai girato. È una realistica testimonianza di uno dei periodi più famosi della storia delle corse automobilistiche. La gente spera di vederci morire. È uno sport in cui si rischia la pelle. Ti può succedere oggi e domani ti può succedere di nuovo. Quando uno rischia la vita così, non dovrebbe farlo per qualcosa di molto importante. Sì, guai se no. Ma che cosa può esserci di tanto importante nel correre più veloce di chiunque altro? Tanti vivono facendo male quello che fanno. Correre è importante per chi lo fa bene. Quando uno corre, vive. E tutto quello che fa, prima o dopo, è solo attesa. Intanto siamo agli inizi degli anni 70, nel boom del movimento hippie, che Steve, da ribelle qual è, vive in pieno, ne abbraccia la filosofia, che comprende anche l'uso di droghe, di alcol. Ha sempre un fermento interiore, una voglia di essere anticonvenzionale e anche delle carenze affettive, lo abbiamo detto prima, carenze di un'infanzia infelicissima che si porta dentro. E tutto questo ne fa un personaggio comunque, non solo sul set ma anche nella vita privata. Steve McQueen diventa un mito vivente, è uno degli attori più influenti di Hollywood, uno dei più pagati, ma è soprattutto un'icona di stile. Qualsiasi cosa indossi, che sia un orologio, un paio d'occhiali, crea subito una moda. Le auto che guida o le moto con le quali corre si trasformano subito in status symbol cercati e voluti da tutti. Eppure la vita privata non va di pari passo e non è un periodo felice. Dopo 15 anni di matrimonio la sua relazione con Nelly entra in crisi, i due divorziano ed è una sconfitta per lui, che non ha avuto una famiglia, e soprattutto gli pesa molto per i due figli. Nel 72 c'è un'altra svolta, un altro colpo d'ala nella vita di Steve McQueen e anche in quella privata. Allora, intanto il regista Sam Peckinpah lo vuole come protagonista di due film. Uno è L'ultimo Buscadero, un western moderno, e subito dopo c'è un thriller che diventa un classico del suo genere, Getaway. Ed è su questo set che incontra l'attrice Ellie McGraw, che è appena diventata famosissima con il film Love Story. Di Love Story si parla subito. Anche se Ellie è sposata, non c'è niente da fare contro i grandi amori. Lei e Steve si innamorano. Si sposano l'anno dopo, nel 73. Per Ellie McGraw è l'inizio di una relazione molto burrascosa e anche la fine della sua promettente carriera di attrice. La fine della mia carriera fu dovuta al mio matrimonio con Steve McQueen. Io lasciai il lavoro. Lui era stato abbandonato dalla madre ed era una cosa che lo aveva veramente ferito. È facile per voi dire che il macho Steve McQueen fece smettere Ellie McGraw. Primo, nessuno mi fa fare niente, scelsi io. Secondo, non era questione che era un macho, aveva un insopportabile dolore dell'anima. Deve essere una grande donna questa Ellie McGraw, complimenti. Intanto Steve McQueen, che è felice e appagato dal suo nuovo matrimonio, è pronto per lanciarsi nell'avventura più importante della sua carriera, quella che viene definita la sua interpretazione più bella, la più intensa, ma anche la più faticosa sotto il profilo della trasformazione fisica. Stiamo parlando del film drammatico Papillon. È tratto dall'omonimo romanzo autobiografico di Henri Charrier, è diretto da Franklin Schaffner ed è interpretato anche da un certo Dustin Hoffman. Papillon è la storia di un ergastolano, chiamato così per la farfalla tatuata che ha sul petto. Questo ergastolano che viene rinchiuso per un omicidio mai commesso nel peggior sistema carcerario del mondo, l'isola del diavolo nella Guyana francese. Il suo desiderio di libertà lo porta a tentare numerose fughe, di cui l'ultima in età avanzata. Avevo sbagliato tempo. Le onde arrivano in serie di sette. La settima onda è grossa abbastanza da riuscire a portarci fuori vincendo la forza delle altre. Ma sei certo? Sì. Fantastico. Guarda, questa è la terza. Pronto? Ti devo dire una cosa. Lui, tu non mi devi dire niente. Ho cambiato idea. Mi dispiace. Lo so. Morirai. Lo sai, no? Può darsi. Ti prego, non andare. Nel 74 Steve McQueen è veramente un numero uno, è una star di fama mondiale, è super pagato come attore ed è considerato uno dei più grandi interpreti. E allora viene chiamato per far parte del cast stellare di un ambiziosissimo progetto. Stanno nascendo i film di genere catastrofico e qui il Colossal si chiamerà L'Inferno di Cristallo. E gli altri chiamati sono Paul Newman, William Holden, Faye Dunaway, Fred Astaire. Non lo so. Forse dovrebbero lasciarlo così com'è. Un altare a tutte le pagliacciate del mondo. Siamo stati fortunati. I morti sono meno di 200. Un giorno all'altro ne moriranno 10.000 in una di queste trappole infernali. Dopo tre mesi di produzione stressante e anche pericolosa, Steve è veramente stanco. Ha alle spalle 15 anni di carriera, 24 film senza un momento di riposo. Pensa alla sua famiglia, pensa alla passione per i motori, decide di fermarsi, volta le spalle a Hollywood. Rifiuta film come Qualcuno volò sul nido del cuculo, Apocalypse Now, Incontri ravvicinati del terzo tipo. Più lui rifiuta i film, più Ellie McGraw sente il desiderio di tornare a recitare, e questo porta a una grave frattura tra i due che sfocia in un altro divorzio. Siamo nel 1978. Nel 1979 Steve deve affrontare il ruolo più difficile della sua vita, perché gli viene diagnosticato un mesotelioma, che è un tumore della pleura, e è associato probabilmente all'esposizione all'amianto subita durante il servizio nei Marine. Muore il 7 novembre 1980 in una clinica messicana, ha solo 50 anni. Però i miti, lo sappiamo, non muoiono mai, e a noi piace ricordarlo con la frase che pronuncia a chiusura del suo capolavoro, la sua interpretazione più bella, Papillon. Maledetti bastardi, sono ancora vivo. E Steve McQueen è ancora vivo, come tutti i grandi. È una storia meravigliosa quella di Steve McQueen. Ringrazio Elisabetta per avermela consigliata. Qui le cadute, le risalite, come sempre, si alternano. Noi vogliamo raccontare proprio storie così. Se volete, mandateci i commenti o segnalateci altre vite su cui puntare il microfono. Scrivete a ilfalcoelgabbiano@radio24.it oppure al nostro sito www.radio24.it. Insomma, se volete mi trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno.